ordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Never was a cornflake girl, thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. Ciao a tutte. This is not Intanto vi raccontiamo perché ci chiamiamo coordinamenta. Cioè il fatto di chiamarci coordinamenta non è stato un vezzo, l'aver messo il nome al femminile non è un vezzo appunto, ma la dichiarazione di un agire politico diverso. Noi non vogliamo coordinare un bel niente, non coordiniamo un bel niente, ma è un prendersi per mano di tante compagne, di tutte quelle che vorranno aggiungersi, e un tendere alla liberazione, perché la liberazione e la libertà sono prima di tutto una linea di tendenza. Non vogliamo un progetto, non vogliamo e non abbiamo un progetto bello, fatto, definito, impacchettato, però siamo sicure di una cosa, che la nostra liberazione, come quella di tutte e di tutti, non sta in questa società, e perciò è il caso di uscirne e tentare di costruirne un'altra. Bene, allora passiamo alla prima notizia che volevamo commentare oggi. Allora, la prima notizia che ci è parso il caso di commentare era questa notizia di questa ragazza di 27 anni che è stata stuprata da due poliziotti in Tunisia. Questa ragazza non solo però è stata stuprata da questi due poliziotti, ma è stata anche accusata di oltraggio al pudore. Ebbene sì, diciamo che questa vicenda si è svolta esattamente il 3 settembre, appunto, in un quartiere di Tunisi, Ain Zaghouan, non saprei pronunciarlo, e dove la giovane ragazza si era appartata in auto con il fidanzato, insomma il ragazzo, dopo una cena, e stavano appunto appartati in un posto un po' isolato, e i poliziotti hanno giudicato il loro atteggiamento indecente e immorale. E in borghese è un particolare non da sottovalutare. Sì. non da sottovalutare, e questi poliziotti quindi si sono avvicinati insomma a quest'auto e hanno chiesto chiaramente per diciamo il loro silenzio, hanno preso dei soldi, e per fare questo però il ragazzo era sprovvisto nel momento di moneta, e per cui un agente è andato ad accompagnare appunto il ragazzo a un bancomat per prelevare, e gli altri due hanno approfittato di questo momento per prendere la ragazza, manettarla e stuprarla uno alla volta. Che dire, dopo che questa vicenda è accaduta, il poliziotto comunque col ragazzo sono tornati nel luogo dove c'era anche la ragazza, e In pratica il ragazzo si è reso conto dell'accaduto, per cui è riuscito a prendere una bomboletta spray di gas immobilizzante ad uno degli agenti, e grazie a questo è riuscito a ottenere, insomma, la liberazione della ragazza. Quindi questa è la vicenda. E come commentare questa vicenda? Cioè, da un lato sembra facile, da un lato sembra difficile, perché la realtà è che dei poliziotti in borghesi, che come sappiamo hanno un ruolo ben preciso, anche in questo caso hanno fatto questo, hanno mantenuto l'ordine. In questo caso un ordine che possiamo giudicare, in questo caso appunto derivante da un processo comunque... Sì, come ma dire, sì, sì, diciamo... Che... È sempre la solita storia, nel senso che il ruolo dà l'immunità è un benefit che viene concesso agli agenti perché svolgano la loro funzione di protettori del sistema e del potere. Questo succede anche qui da noi, e tanto più in un paese in cui qualsiasi atto, qualsiasi azione o qualsiasi cosa compiuta da una donna assume un valore molto molto più grande. Tant'è vero che poi che cosa è successo? È successo che questa ragazza è andata a denunciare gli stupratori, ha trovato questo coraggio ed è stata denunciata lei per oltraggio al pudore. È stata denunciata e in questo momento comunque, diciamo, siamo alla seconda udienza ed è stata confermata in questo momento, quindi l'accusa di oltraggio, e c'è da dire che questo comunque prevede anche fino a 6 mesi di reclusione, quindi insomma neanche una cosa proprio così banale. E c'è da dire che questo comunque è poi questa notizia viene dopo poco che si era ottenuta, possiamo dire, una vittoria riguardo a quello che è stata qualche giorno prima c'era stata questa vittoria, diciamo, quando l'espressione "la donna complementare all'uomo" era stata eliminata dalle bozze degli articoli della futura costituzione tunisina, e che appunto avevano suscitato chiaramente notevoli polemiche, in quanto era stato eliminato l'uguaglianza tra uomo e donna per farla sostituire ad una complementarietà, quindi per ribadire sempre i ruoli chiaramente. Certo, perché diciamo nella Costituzione tunisina era prevista la parità fra uomo e donna. Dopodiché Ennahda aveva proposto un cambiamento, una variazione, introducendo il concetto di complementarietà, cioè la donna sarebbe stata complementare all'uomo e soprattutto in famiglia, come soggetto, soprattutto in famiglia. Quindi non sarebbe più vissuta di sé, ma sarebbe vissuta soltanto come contraltare di una figura maschile. Per fortuna questa proposta per adesso è stata sospesa, è stata ritirata, però non sappiamo che fine farà. Diciamo che c'è stata una reazione abbastanza forte anche in Tunisia rispetto a questo fatto. Ci sono state delle manifestazioni di donne sotto le strutture pubbliche e al grido di perdonatemi la pronuncia, voler violer, cioè rubare, velare, stuprare. Però diciamo questo scenario che si è aperto con questo fatto della ragazza tunisina, con il ribaltamento della situazione da vittima diventata addirittura accusata e rischia addirittura la galera, eccetera, che apre scenari inenarrabili su quella che è la deriva islamica di tutto un certo tipo di stati, o comunque di anche delle stesse primavere arabe. Però noi ci dobbiamo sempre ricordare una cosa, perché noi questa trasmissione l'abbiamo chiamata "I nomi delle cose", no? E tentiamo sempre di capire le cose da dove vengono e di chiamare le cose con il loro nome. Allora, la deriva islamica, o comunque l'integralismo islamico di tutti questi paesi di tutto il Medio Oriente ha una matrice ben precisa. Non è che è nato improvvisamente, questi sono impazziti, hanno deciso di diventare tutti integralisti islamici e di dare questo peso all'integralismo islamico. Viene da lontano, quando gli Stati Uniti, l'Inghilterra, i paesi occidentali hanno foraggiato, allenato, addestrato gli integralisti in funzione anti governi locali, perché avevano degli interessi particolari. È cominciato per esempio in Iran con Mossadegh. Gli inglesi hanno rovesciato Mossadegh, che era un esponente dell'alta e media borghesia laica, che aveva avuto soltanto l'ardire di mettere in discussione l'eroe royalty sulle forniture di petrolio. L'hanno rovesciato, è andato al potere il regime di Reza Pahlavi, che è stato sanguinario, e questo ha aperto la strada a Khomeini. In Afghanistan è successo lo stesso, perché in Afghanistan c'era un governo filo-sovietico, 7 donne ministro. Sono stati foraggiati i talebani, sono stati armati, sono stati addestrati, è successo quello che è successo, dopodiché questi sono i risultati. I paesi, la Libia era un paese laico, la Siria era l'Iraq era un paese laico, con tutti i loro difetti, con tutto quello che possiamo dire, ma erano un paese laico. Se in Libia sarà rimessa la Sharia, noi sappiamo di chi è la colpa. Notizia che volevamo, insomma, che ci ha colpito e che volevamo trattare riguarda il lavoro e delle lavoratrici che a Venezia, licenziate dalla cooperativa di cui facevano, per cui lavoravano, la cooperativa L'Ancora, che è appunto una cooperativa che gestisce diciamo per il comune di Venezia, fornisce servizi agli anziani, ai disabili, e questa cooperativa ha licenziato 55 lavoratrici e lunedì 4 lavoratrici in segno di protesta per cercare una visibilità si sono arrampicate nella Basilica di San Marco e hanno esposto degli striscioni in segno di protesta. Questa notizia ci ha colpito e volevamo, insomma, rifletterci insieme. Molto spesso ultimamente si sono verificate forme di protesta simili a questa a nostro avviso rispecchiano un po' quella che è la situazione attuale dei rapporti di forza nel mondo di lavoro e dei rapporti di forza in genere, a discapito naturalmente della classe lavoratrice. E sì, le lotte sono molto spesso isolate non si riesce a trovare una risposta forte per reagire a questo stato di cose e si tentano quindi delle azioni molto mediatiche che possano avere una risonanza. E naturalmente nel campo delle cooperative la difficoltà riguarda anche l'impossibilità di fare di incontrarsi tra i lavoratori e le lavoratrici. Non c'è un luogo fisico di lavoro che sia sempre lo stesso, per cui diventa proprio difficile organizzarsi. E quello che ci sembrava importante dire riguardo questa notizia, naturalmente diamo solidarietà alle lavoratrici che comunque si sono mobilitate. Lo spunto che volevamo dare è quello che però le forme diciamo di lotta dovrebbero in qualche modo trovare anche cercare di trovare dei rapporti con altre realtà che siano auto-organizzate, che in qualche modo le lotte isolate non hanno sbocchi. E poi soprattutto c'è questa abitudine che ormai è difficile da estirpare, che è quella di chiedere invece di prendere. Io mi rendo conto che è un'affermazione che poi provoca delle azioni di conseguenza e che quindi bisogna farsi carico di parole di questo tipo, però secondo noi auto-organizzarsi e porre delle non richieste ma delle determinazioni diverse rispetto al posto di lavoro, e quindi presentarsi in un modo di diverso e attivarsi sul posto di lavoro in maniera diversa, forse è più costruttivo che non fare delle azioni che dovrebbero coinvolgere in effetti l'opinione pubblica, no? Sono destinate all'opinione pubblica e potrebbe anche essere una buona diciamo presentazione, però di fatto poi non è questo, è che sono rivolte sempre alle istituzioni che dovrebbero prendere provvedimenti, ma se sono le istituzioni stesse che hanno fatto questo è difficile che facciano delle scelte diverse. Sì, anche perché poi sono le stesse istituzioni che hanno esternalizzato i servizi e che quindi hanno appaltato a cooperative i servizi che dovrebbero invece essere gestiti direttamente dalla è una scelta politica di fondo. No, sì, per cui vengono appaltati servizi e vengono vinti da cooperative che al ribasso vincono gli appalti e poi naturalmente questo va a discapito dei lavoratori. Certo, poi si innesca anche la guerra fra poveri. Volevamo dare la notizia dei lavoratori e lavoratrici che si trovano adesso in Campidoglio, e sono i lavoratori e lavoratrici della società Vodafone che erano stati ceduti alla società Comdata e che alcuni mesi fa il Tribunale del Lavoro di Roma invece aveva giudicato l'esternalizzazione come non doveva essere fatta, appunto, non accettabile. Ecco, scusa. E l'esternalizzazione, tra l'altro, riguardava più di 900 lavoratori in tutta Italia, di cui 330 solo a Roma. E malgrado la sentenza del tribunale, Vodafone ha aperto la mobilità per i lavoratori che erano stati reintegrati, e quindi volevamo darvi questa notizia e solidarietà. E solidarietà.

Allora, ciao a tutte, ancora state sulla 87.9 su Radio Onda Rossa e questa è la trasmissione I Nomi delle Cose a cura della Coordinamenta Femminista e Lesbica. E la parte appunto dell'approfondimento la volevamo dedicare a un fatto gravissimo che è successo a febbraio vicino L'Aquila, dove è stata stuprata fuori da una discoteca a Pizzoli, appunto vicino L'Aquila, una ragazza, accusato di questo stupro e di tentato omicidio è Francesco Tuccia, militare di stanza all'Aquila nei contingenti di controllo della cosiddetta sicurezza post-terremoto. E giovedì 18 ottobre ci sarà all'Aquila la prima udienza del processo. Diciamo che noi siamo consapevoli che la violenza maschile sulle donne non dipende dalla religione, dall'etnia, dalla collocazione sociale, dalla nazionalità, non ha confini, attraversa i tempi storici, però siamo anche consapevoli che di volta in volta assume dei connotati e risponde a situazioni precise a seconda della società in cui il patriarcato è calato. Per cui, per combattere la violenza maschile, è vero che bisogna contrastarne le manifestazioni eclatanti, esterne, dirette, ma bisogna cercare di indagare le ragioni sociali, smascherare le ragioni politiche ed economiche che la determinano e che ne sono causa. Noi siamo convinte che alla radice della violenza maschile ci siano le ragioni, le configurazioni socio-economiche che determinano questa società, perché può esistere il patriarcato senza capitalismo, ma non può esistere il capitalismo senza patriarcato, perché è la sua espressione attuale, è l'espressione del patriarcato in questo momento storico. Quindi in pratica è proprio in questo momento storico e qui che noi dovremmo cercare di smascherare i momenti e le modalità con cui si perpetua e con cui si manifesta. Soltanto andando a scavare e a cercarne le cause possiamo avere una speranza di scardinarne gli effetti. Ci chiediamo perché questo stupro così violento e ferato è successo all'Aquila, in un contesto, in un territorio che è diventato una zona di conquista, dove unità militari e poliziesche hanno occupato il territorio e che vengono percepiti come tali, come occupanti dalla popolazione. E in questo contesto quindi anche le donne, come nei territori di guerra, diventano bottini di guerra. E in questo contesto quindi che avviene uno stupro come quello di Pizzoli, proprio perché le logiche di guerra sdoganano l'arroganza, la sopraffazione diventa una pratica quotidiana. Certo, noi siamo convinte che la violenza maschile viene esercitata soprattutto in famiglia, che le donne si devono guardare dai padri, dai fratelli, dagli amanti, dagli ex, che vengono uccise continuamente. È un dato di fatto, perché una donna ogni due giorni viene ammazzata da qualcuno che le è vicino, da un ex, da un marito, da uno spasimante, da qualcuno respinto, qualcuno lasciato, o qualcuno che si vuole lasciare, o qualcuno con cui si sta. Però ognuna di queste situazioni derivano da qualcosa che è all'interno di questa società. Cioè, non è che la cultura e la configurazione culturale di una società non è qualcosa che vive di sé, è qualcosa che deriva dalla configurazione socio-economica. E non è che competizioni di principio con buoni propositi, facendo delle non lo so, manifestazioni, sì, esatto, si può pensare di cambiare uno stato di cose di questo tipo. Quindi, come in famiglia, noi siamo consapevoli che la violenza sulle donne deriva principalmente dalla riproposizione forte dei ruoli che fa questa società, così in questo caso specifico. Sì, in questo caso specifico c'è un controllo sociale che viene poi esercitato, sì, su tutti e tutte, certo, in particolar modo sulle praticamente donne. Sì, praticamente quello che noi esportiamo nei paesi del terzo mondo con le guerre coloniali, con le guerre neocoloniali, e l'arroganza che noi esercitiamo nei confronti dei popoli del terzo mondo. Non possiamo pensare che non sia riportata anche all'interno dei nostri territori. Anzi, adesso ci sono dei territori, come anche la Val di Susa, come alcuni territori della Sardegna, che sono stati trasformati in colonie interne, e questa è una cosa tipica del neoliberismo. E il fatto di trasformarli in colonie interne riporta all'interno, o come si dice sul fronte interno, tutti i meccanismi di dominio e di sopraffazione che vengono esercitati contro le popolazioni del terzo mondo. Diventa quindi ancora sempre attuale, sempre più importante oggi come in passato, autodeterminarsi e auto-organizzarsi, e quindi progettare e muoversi in una direzione per un'altra società, di un'altra società. E qui sta proprio l'attualità, l'importanza del movimento femminista, nella consapevolezza che uscire dalla società patriarcale significa anche rompere con l'involucro della società capitalistica dentro il quale la società patriarcale si perpetua. Volevo anche dire una cosa riguardo proprio all'Aquila, insomma, che comunque non ci dimentichiamo che l'Italia ha fatto parte, insomma, della commissione che ha steso poi il rapporto NATO sul Urban Project 2020, in cui proprio, diciamo, ci si proponeva di fare un'analisi di quello che era il territorio, perché è l'urbanizzazione che è sempre più, insomma, che avanza sempre di più in tutto il mondo, perché non è neanche, diciamo, una cosa relativa solo all'Occidente, come noi potremmo immaginare, e che questa urbanizzazione porta sempre più a, comunque, anche a un segregare sempre più le persone, comunque, chiaramente, se parliamo di persone, i proletari fondamentalmente, perché poi diciamo che è questo il target chiaramente di questa società, sempre più ad ammassarle in periferie, che però allo stesso modo sono comunque un tipo di strutture che sono disorganizzate fondamentalmente e sono anche più difficili da controllare. Per questo è necessario proprio fare un'opera di integrazione proprio dell'apparato militare all'interno di queste città, e questo proprio è quello che è l'obiettivo, insomma, di questo rapporto NATO, che prevede proprio una serie di punti che potrei anche leggere, cioè 5 punti cioè in cui viene detto proprio: comprendere, modellare impegno, consolidamento e transizione, in cui proprio si cerca di passare da quella che è una società attuale, in cui comunque ancora si può, anche se comunque questo è stato redatto nel 2003, quindi 2020 ora è più vicino decisamente, quindi una società che comunque dove ancora è possibile una certa forma di ribellione, a una società in cui l'apparato militare sarà talmente, diciamo, impregnato ovunque, sarà talmente costante che senza neanche accorgercene, insomma, saremmo già diventati il prossimo Aquila, il prossimo Val di Susa, e non avremo neanche bisogno più di una situazione d'emergenza come è stato in questi casi. E comunque ricordiamoci sempre che tutto quello che succede dipende anche da quanto viene supportato da tutte quelle e tutti quelli che tacciono di fronte alle guerre umanitarie, che girano la testa o le spalle dall'altra parte quando si tratta della propaganda securitaria, se non addirittura la izzano e si scagliano contro il diverso, tutti quelli che inneggiano al controllo, tutte quelle e tutti quelli che inneggiano al controllo sociale, perché tutti costoro sono partecipi responsabili di questa cultura di guerra. E non è soltanto nelle manifestazioni eclatanti, cioè per esempio sul fatto che non si fa assolutamente nessun tipo di non dico manifestazione, non dico ripresa di posizione, ma neanche si fiata sulle guerre neocoloniali che noi stiamo esportando in giro per il mondo. Allora non è soltanto nelle situazioni così eclatanti come quelle delle guerre neocoloniali, ma anche nel ammiccare continuamente con le istituzioni per tutta una serie di problematiche, tipo appunto il controllo sociale, c'è il problema dei Rom, si deve smantellare il campo, c'è il problema dei barboni per le strade, di Cofferati memoria, si deve togliere dalla strada il barbone, non ci si può più sedere per terra, non si possono più bere birre, non si può più schiamazzare, non ci si può più godere la città, la notte, la vita. La nostra vita è tutta controllata giorno per giorno, ora per ora, monitorata da telecamere. Se noi non ci prendiamo, non ci facciamo carico di impostare un rifiuto totale e determinato rispetto a tutte queste cose, noi continuiamo ad avallare una cultura di guerra, e la cultura di guerra porta con sé una violenza nei confronti delle donne di antichissima memoria. I put a spell on you. Do do do do do do do do. yeah, I put a spell on you. Per, diciamo, volevamo anche concludere, insomma, un po' con questo estratto di una testimonianza proprio dai Campi Aquiliani, e che appunto ci dice, ci testimonia un po' proprio quella che è la situazione, quella che è stata e che, insomma, in questo momento è più o meno uguale e, lì nei campi, nelle tendopoli, diciamo. Allora, oltre ai vigili del fuoco, su 60.000 abitanti, di cui 30.000 sfollati sulla costa, ci sono più di 70.000 uomini e donne in divisa all'Aquila, dall'esercito ai carabinieri, dalla polizia municipale non ai GOM, alla guardia di finanza, alla guardia forestale. E poi c'è Digos e polizia in borghese sparsa per tutto il territorio. In ogni campo, su 160 sfollati, ci sono almeno 200 sbirri a vario titolo, più quelli in borghese. Queste tendopoli sono dei lager. Non è permesso tenere animali con sé, tranne rare eccezioni strombazzate in televisione. Non è permesso andare a trovare amici e parenti negli altri campi senza essere identificato. Non è permesso cucinare, lavarsi, autogestirsi. Ci trattano come decerebrati. Ci hanno invaso, colonizzato, disinformato. Non arrivano giornali nei campi. Per andarli a comprare bisogna uscire la mattina presto dopo essere stati identificati e cercare di raggiungere l'edicola ancora agibile più vicina. Abbiamo il marchio del terremotato, un tesserino da portare sempre bene in vista. E mentre cerchi di addormentarti in mezzo a questo orrore, gli uomini in divisa entrano nelle tende e ti accecano la vista con le torce per vedere chi c'è e chi non c'è, che cosa fa e se ha il computer acceso o la televisione. È vietato tenerli con sé nella tenda. C'è il coprifuoco. Arrestano un rumeno per aver recuperato dalle case crollate pezzi di grondaia di rame, mentre i veri sciacalli sono pagati per tenerci rinchiusi dentro i campi o per mandarci via dalla disperazione. What lonely hours with memories lingering, like faded flowers, life can't mean anything when your lover, when your lover, when your lover has gone. C'è anche un'altra osservazione da fare. La militarizzazione dei territori aquilani, la militarizzazione dei territori della Val di Susa, di parte della Sardegna, è accompagnata però da una sorta di militarizzazione diffusa e di controllo poliziesco di tutti i territori metropolitani. E il fatto che questa cultura di guerra e di controllo militare e poliziesco abbracci anche le nostre città ce lo fa capire, per esempio, un episodio che è successo, mi pare l'anno scorso ormai, non vorrei dire sbagliarmi, che è per esempio lo stupro di una ragazza nella caserma del Quadraro qui a Roma, ad opera di tre carabinieri e un vigile urbano. Allora, è chiaro che tentano tutti di far passare queste come mele marce, e episodi che possono succedere, che sono casuali e che sono al di fuori del controllo. Invece non è così, perché l'arroganza che viene esercitata dal personale in divisa è esaltata al massimo grado in una situazione di controllo sociale. A questo proposito, così, una domanda a margine, mi chiedo che fine abbia fatto la ragazza che è stata stuprata nella caserma del Quadrano, perché l'ultima notizia piccola, sparuta, in ventesima pagina che abbiamo è di questo giugno, se non vado errata, su un giornale che il giorno dopo l'incidente probatorio diceva che c'era stato l'incidente probatorio in cui la ragazza aveva testimoniato su questa cosa alla presenza degli avvocati anche degli stupratori. Questo tentativo di insabbiamento, questo silenzio che c'è su un episodio di questo tipo, vi fanno capire, ci fanno capire, dovrebbero farci capire quanto la militarizzazione del territorio e l'immunità di tutto un certo tipo di atteggiamenti sia diffusa molto più di quanto noi possiamo sentire e pensare e praticamente ne risponderemo sulla nostra pelle, perché e non dobbiamo aspettare, dovremmo svelare questi meccanismi il più possibile. Non possiamo aspettare che di subirli sulla nostra pelle, prima o poi. Riteniamo importantissimo sostenere tutte le donne durante i processi per stupro, perché sappiamo bene che nelle aule dei tribunali finiscono per subire violenza un'altra volta. Sì, diciamo che abbiamo assistito personalmente a dei processi per stupro e le donne veramente, soprattutto dagli avvocati degli stupratori e anche certe volte dai giudici, anche dipende dalla sensibilità personale, ma si crea un clima di giudizio pesantissimo che indaga sulla vita personale, sul tipo di slip portati, sul tipo di atteggiamenti tenuti, sulla vita privata, sul tipo di pantalone, sul tipo di tacco, sulla misura del reggiseno, cioè delle cose allucinanti che soltanto chi è passato attraverso un'esperienza del genere non dico può capire, ma può cercare di far capire alle altre. Per questo vi ricordiamo quindi del presidio indetto per giovedì 18 ottobre alle ore 8:30 di fronte al Tribunale dell'Aquila, zona industriale di Bazzano, presidio indetto dal Centro Antiviolenza per le Donne dell'Aquila e dal martedì autogestito da Femministe e Lesbiche di Roma. E riteniamo però importante anche uscire con azioni di sensibilizzazione nella nostra città per questa vicenda e per fare in modo che questo fatto diventi un motivo di riflessione e di denuncia e che speriamo quindi che ci siano azioni per denunciare questo stupro sia a Roma che anche in altre città. Sì, infatti noi sentiamo la necessità di uscire con azioni nella città il 18 perché non vorremmo, cioè desideriamo non relegare, vorremmo che non fosse relegato questo fatto al rapporto vittima-istituzioni e che restasse un rapporto che si consuma nei tribunali, anche perché questa giustizia non ci appartiene. Noi sappiamo che è l'espressione di questo sistema sociale, è una ratificazione dei rapporti di classe e quindi è un tipo di configurazione di giustizia che proprio ci è lontana, non ci appartiene, che noi non vorremmo mai prendere in considerazione. Ciò nonostante, appunto, come diceva Elena, è giusto supportare le donne perché altrimenti si trovano sole di fronte a una situazione di grande violenza. Però allo stesso tempo noi vorremmo e cercheremo di impostare delle iniziative qui a Roma perché sia momento di conoscenza e ci auguriamo che il 18 lo facciano anche in altre città. Vi salutiamo e ci risentiamo mercoledì prossimo e vi ridiamo i nostri contatti, il contatto del blog che è www.coordinamenta.noblogs.org e l'indirizzo email coordinamenta@autistiche.org. E vi faremo sapere sul nostro blog come e quando usciremo con le iniziative a Roma. Ciao. Hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really this is not really happening. Giusto perché oggi questo era l'argomento, insomma, non felice dello stupro, quindi la violenza sulle donne, volevamo lasciarvi con una canzone che è stata proprio scritta da Tori Amos che ha subito appunto una violenza lei stessa e ha scritto questa canzone proprio dopo questo episodio e quindi la vorremmo insomma dedicare per solidarietà insomma a tutte le vittime di stupro. Ciao. Friday morning, Thursday night, far from sleep. I'm still up and driving, can't go home, obviously. So I'll just change direction, 'cause they'll soon know where I live. And I wanna live, got got a full tank and some chips. Was me and a gun and a man on my back. And I sang holy, holy as he buttoned down his pants. You can laugh, it's kind of funny, the things you think in times like these. Like I haven't seen Barbados, so I must get out of this. Yes, I wore a slinky red thing. Does that mean I should spread for you, your friends, your father, Mr. Ed? It was me and a gun and a man on my back. But I haven't seen Barbados, so I must get out of this. And I know what this means. Me and Jesus, a few years back, used to hang. And he said, it's your choice, babe. Just remember, I don't think you'll be back in 3 days' time. So you choose well. Tell me what's right. Is it my right to be on my stomach or fret so ill? It's me and a gun and a man on my back. But I haven't seen Barbados, so I must get out of this. And do you know Carolina, where the biscuits are soft and sweet? These things go through your head when there's a man on your back. You're pushed flat on your stomach. It's not a classic Cadillac. Me and a gun and a man on my back. But I haven't seen Barbados, so I must get out of this. I haven't seen Barbados, so I must get out of this. 5 a.m. Friday morning, Thursday night,